Dicevo che ci sono tanti motivi nelle feste della ricorrenza di oggi. Io ne aggiungo una, che è la festa dei pastori. Ci sono due spunti di riflessione dalle scritture che abbiamo udito. La prima, se ascolto, rileggo le tre letture, trovo un tema di fondo, un denominatore comune, che chiamerei la presenza di Dio. Presenza che la benedizione sacerdotale stabilisce nel popolo, prima lettura. Presenza manifestata nel volto e nel nome di Gesù. Presenza che si fa interiore al credente grazie al dono dello Spirito, che fa scoprire al credente la figliolanza divina. La maternità di Maria è l'evento che consente la manifestazione della presenza benedicente di Dio agli uomini, nota per noi, motivo di consolazione per sentirci benedetti di Dio. Motivo di gioia di essere credenti in un Dio che mi guarda, mi chiama per nome, come lo ha fatto per Gesù. Motivo di preghiera di lode. Un secondo motivo di riflessione è la pagina del Vangelo. Una pagina di una tenerezza, di uno stupore, di una fiducia immensa. Soprattutto è descritta la realtà dell'evento di una nascita promessa, desiderata, aspettata, però anche motivo di conflitto. Andate a vedere, dirà Erode, poi riferitemi. Provo a sottolineare queste cose. Ciò che a me pare colpisce in questo passo del Vangelo di Luca non è l'annuncio dato dagli angeli della nascita del Salvatore, del Messia. Colpisce piuttosto chi siano i destinatari di questo annuncio, appunto i pastori. Perché i pastori? In Israele, al tempo della nascita di Gesù, c'era una quantità di gente molto alta, molto, molto in alto. Ed erano lì che aspettavano il Messia, anzi molti ne aspettavano due. In ogni caso c'era molta gente buona, brava, che si trovava nella condizione dei signori. Ma qui entriamo un po', non dico nella polemica, anche del catechismo che abbiamo un po' macinato. I pastori non erano dei sapienti, forse non sapevano leggere e in ogni caso non avevano letto il libro delle parabole, i libri dell'uno o dell'altro profeta, Geremia, Isaia, e altri. Faccio un passaggio che non è secondario. Se non erano padroni dei loro greggi, ma in questo caso difficilmente avrebbero passato le notti all'addiaccio senza paura che qualcuno li disturbasse o gli rubassero le coperte. Erano servi, perciò, secondo le condizioni del tempo, non erano destinati a compiere le più alte opere dell'uomo, come minimo non potevano aspirare, liberi dalle necessità, alla contemplazione, alla preghiera della Torah, della legge. Erano legati al vincolo del lavoro della terra. Erano abituati all'infinita ripetizione dell'identica fatica. Le notti si susseguivano alle notti, sempre uguali. E non avevano niente, questo è tremendo, da aspettarsi di nuovo. Forse proprio per questo erano capaci di meravigliarsi, capaci di stupore. Ma la meraviglia non fu che fosse nato il Messia, cosa per loro difficile, ma che fosse arrivata la pace, contropartita sulla terra della gloria a Dio nei cieli. E la pace sapevano cos'è. Notate bene i passaggi. La pace sapevano cos'è. E forse perfino pensare che la pace significasse essere servi, non più servi, per essere invece figli, cioè semplicemente uomini, non più schiavi. Questo era il minimo di desiderio coltivato dai pastori. Allora un interrogativo ultimo che viene spontaneo: ma perché proprio a loro l'annuncio? Perché quel Messia, quel Salvatore, non nasceva nella forma maestosa di Dio? San Paolo, nella lettera ai Filippesi, dirà: sarebbe stata una rapina. Non nasceva tra i potenti e non nasceva come un signore. Questo stuzzicava la curiosità dei pastori. Non era uno dei loro, ma era uno di loro. Era un bambino come quelli che anche loro, i pastori, nelle notti fredde sotto Betlemme, mettevano i loro figli nelle cosiddette grotte che ci sono ancora e li mettevano a riscaldare in una mangiatoia. Quindi anche Gesù era un servo. Per questo lo capivano. E proprio così poteva annunciare la pace a un mondo dove non ci fossero più servi, ma uomini veri e anche amici. Chiudo con una piccola cosa. Valeva la pena andare a Betlemme? Adesso non ci va più nessuno, perché ci hanno messo un muro e la pace è morata. Anche i cristiani che ci stavano, magari per vedere i crocifissi fatti con il legno d'olivo, se ne vanno per non restare prigionieri dietro quel muro che ora nasconde la nostra vista, Betlemme, Gerusalemme e tutta la Palestina. Quindi cancella anche loro il muro. Questa riflessione poi continuerà con le preghiere ultime che suggerirò. Gloria a Dio nell'alto di Gesù. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo.